24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:32 minuti, buongiorno cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Oggi nel nostro sondaggio parleremo di nucleare, perché una serie di intellettuali politici del PD hanno detto a Bersani: caro Bersani, devi aprire al nucleare. Bersani ha detto di no. E noi vi chiediamo: secondo voi il PD sbaglia? Dovete votare su radio24.it oppure sul sole24ore.com. Lo state già facendo in molti, oltre già 1000 i voti arrivati, e siete divisi a metà. Il nucleare divide, 50 e 50 esatto. Ne parleremo alle 8:30, come detto. E ora andiamo a scoprire che cosa propongono i giornali in edicola. In primo piano, in questo giovedì 13 maggio, c'è una lista. Questo è il tema più importante su tutti i giornali. Una lista che fa tremare la politica. Oltre all'economia e la finanza, l'apertura del Sole 24 Ore: dal PIL un segnale di crescita. Marcegaglia: la strada è ancora lunga. Mentre La Stampa: guerra dall'Unione Europea al debito. Queste sono due aperture economiche, ma la lista, quella trovata dagli inquirenti nel computer di Diego Anemone, il costruttore, vicenda del G8, gli appalti, la cosiddetta tra virgolette cricca, questa lista sta facendo tremare la politica. È la lista dei probabili clienti di Diego Anemone. Case: la lista segreta di Anemone per il Corriere. Repubblica: tutti i nomi della lista Anemone. Il Giornale: l'elenco che fa paura ai politici. Libero: le 350 case del governo. Il Messaggero: G8, Scaiola sfida i giudici, perché ha detto non vado dai giudici. Per il Fatto Quotidiano: Scaiola scappa. Insomma, di cosa stiamo parlando? Tutte le prime pagine dei giornali, come detto, pubblicano la lista, i nomi trovati nel PC di Anemone. Leggo dal Corriere: ristrutturazioni, la lista di Anemone, 370 interventi anche per politici e prelati. Davvero, il giornale decide di pubblicarle la lista a partire da oggi. Oggi c'è il primo elenco, in ordine alfabetico, credo. E Fiorenza Sarzanini sul Corriere dice: sono citati un po' tutti i clienti, Guido Bertolaso, Claudio Scaiola, ovviamente i più famosi. Ci sono anche delle voci anche misteriose, per esempio due volte Claps Potenza, rimanda al caso, insomma, di parrebbe rimandare al caso di Elisa Claps, no? La ragazza scomparsa dopo diversi anni, trovata morta addirittura nella chiesa di principale di Potenza, ma insomma va verificato. Ma poi politici, prelati, uomini del cinema, uomini dello spettacolo, ci sono tutti. Ci sono il capo della polizia attuale Antonio Manganelli, il predecessore Gianni De Gennaro, inseriti nella lista, dice il Corriere, ma si tratta di lavori nel primo caso di Manganelli non effettuati, nel secondo regolarmente pagati. Ci sono prelati, Monsignor Francesco Camaldo, per esempio, quello da citato, Nicola Mancino, l'attuale vicepresidente del CSM, che quando era ministro dell'interno ha fatto, diciamo, dei lavori, ha affidato dei lavori a Diego Anemone. Ci sono dei cognomi che potrebbero rimandare a dei politici: Vietti, Lisi, Lupi, inseriti soltanto come cognomi, bisognerà verificare di chi si tratti. Ci sono uomini del cinema: Pupi Avati, il regista, il produttore cinematografico Andrea Occhipinti. Ma politici veramente tantissimi. Il diario di Anemone che fa tremare i VIP, pagina 3 del Giornale, ma a pagina 2 c'è l'elenco, così come a pagina 2 e 3 c'è l'elenco su Repubblica. Ecco il giornale che inizia a pubblicarli, dalla Capitale al Circeo. Ecco tutti i lavori che facevano fare al costruttore rampante, scrive il Giornale. Aveva 32 anni, stava per spiccare il volo, ma aveva clienti dovunque, anche, come detto, Nicola Mancino, Bertolaso molto citato, Scaiola, Silvio Berlusconi, perché la lista riporta anche tra i lavori Palazzo Grazioli e in seguito Parlamentino, dove c'è pure la Forza Italia sede. Giancarlo Leone, vice direttore generale della RAI. Insomma, di certo in questa lista, da questa lista si capisce che era una persona molto molto addentro per quel che riguarda i lavori a Roma. Tra l'altro il Corriere rivela anche una cosa un po' misteriosa: l'italo-finlandese Annika Sanna, 23 anni, è nell'elenco di questa lista o meglio, è nell'elenco della cassaforte di cosiddetto Don Bancomat, Don Evaldo Biasini, che avrebbe rifornito di contanti l'intera cricca. Questa era l'accusa nei confronti di Don Evaldo, è l'accusa nei confronti di Don Evaldo Biasini. È stata citata anche questa Annika Sanna. Il Corriere si dice: ma chi è? Una ragazza di 23 anni, di origine italo e italo-finlandese. Che ci fa una ragazza di 23 anni, di cui viene pubblicata anche la foto? Andiamo a scovarla nella sede dove lavora. Esce, chiude la porta, evidentemente non vuole far sentire ai colleghi che sta parlando di questo. Tutti, insomma, sono un po' stupiti perché sono stati girati assegni, diversi assegni a questa ragazza di 23 anni, tutti con lo stesso strano importo, 12.499 euro, quello degli assegni usati per comprare a suo tempo la casa vista Colosseo all'ex ministro Scajola. Ovviamente lei dice poche parole, poi arriva il padre agitando la sigaretta, sbatte la porta, andate via, dice ai giornalisti. L'accusa, insomma, scrive Lorenzo Salvia, è l'ipotesi degli inquirenti, è che Annika, padre italiano, madre finlandese, sia stata utilizzata come testa di legno per aggirare il fisco. Alla sua società, la Mida SRL, la Cricca avrebbe affidato una serie di consulenze fittizie con l'unico obiettivo di abbattere i grandi guadagni fatti coi lavori del G8. Insomma, questa lista sta facendo tremare la politica. Bertolaso è citato in questa lista e fa un'intervista esclusiva al Secolo XIX, pagina 3. Contrattacca Bertolaso. Intanto parla un po' di quella famosa conferenza stampa, no? La battuta su Clinton. Avrei voluto dirgli che abbiamo entrambi un problema con Monica. Frattini ha preso le distanze, lui fa il suo lavoro. Dal punto di vista diplomatico posso capire che la battuta sia inopportuna, ma io l'ho fatta da tecnico e sono convinto che a Clinton, se gliel'hanno riferita, non se la sia presa affatto, dice Bill Clinton. Chissà Hillary Clinton invece. E poi, insomma, ma lei ha detto che la fisioterapista Monica l'ha sconocchiato, sarebbe? Ha presente lo sconocchio quando c'è, che cosa? Il crack, ecco, il crack alla schiena. Poi dice, mia moglie ha fatto dei lavori per Diego Anemone, ma è tutto è in chiaro, lavori di falegnameria, un assegno da 20.000 euro, col caso Scajola non c'entro nulla, anzi, dice, col caso Scajola, dico, gli sono vicino, capisco la sua amarezza, ci sono passato. E poi Bertolaso dice, perché? Non vi chiedete perché la politica, tutta maggioranza e opposizione, hanno votato curiosamente quando per la questione dell'emendamento sull'arbitrato? Perché io sono arrivato col decreto taglio del 30% tutti i budget, poi siccome le aziende dopo un primo momento di sbandamento urlano pirateria, ruberia, si riorganizzano per chiedere l'arbitrato, intervengo io e ecco perché votano tutti l'emendamento anti-arbitrato. Che dice Bertolaso? Sa perché in Italia quando c'è un conflitto tra privati e amministrazioni pubbliche si ricorre sempre all'arbitrato? E il giornalista Paolo Crecchi, perché è una fonte di reddito, una greppia per i professionisti. Esatto, è una greppia. E infatti in commissione la politica mi ha cancellato l'emendamento. Tutti d'accordo, maggioranza e opposizione. Dunque Bertolaso contrattacca dicendo state tranquilli, tra poco me ne vado e vado in Africa, come promesso, a lavorare, a tornare a fare il medico. Bertolaso contrattacca, il G8 greppia per tutti, anche l'opposizione votò per gli arbitrati, io no. La casa, la politica e la casa, questo è il tema che sta tenendo sulle spine il governo, tanto che Libero, le 350 case del governo, Franco Bechis che fa, cita a pagina 2 e 3, Sister, agenzia del territorio, che ha fatto un'indagine, secondo i dati di questa agenzia, tra ministri, sottosegretari, insomma tutti i membri del governo, viceministri, quanti sono i fabbricati? 348, ognuno in media ha 5-6 case. Certo c'è Berlusconi che ne ha tante, chi ne ha di meno. E c'è tutto l'elenco, eh? Alfano ha due fabbricati e basta, Bondi due fabbricati e basta, Bossi un fabbricato e 4 terreni, Brunetta 8 fabbricati e 6 terreni, fa 14, Calderoli 9 fabbricati e 9 terreni, 18. C'è chi come Raffaele Fitto, 12 fabbricati e 73 terreni, 85, alza di molto la media. La Russa 10 fabbricati e 1 terreno, Maroni un fabbricato e 12 terreni. Poi non so, chi volete sapere, non potete chiedermelo. Adolfo Urso, 9 fabbricati, 0 terreni. e così via. Frattini, 4 fabbricati, 0 terreni. C'è tutta la classifica su Libero. La trovate, sono i dati, tutti irregolari, ma insomma, per dire, le 350 case del governo. In media, ognuno ha in media 5-6 immobili. C'è Scajola che non va dai magistrati a parlare, perché non sono competenti quelli di Perugia, dice. C'è Di Pietro che critica a pagina 4 di Repubblica: svegliatevi, se si rifiuta, ve lo dico da ex magistrato, vuol dire che è indagato, ci sta dando una notizia, non si presenta di fronte ai PM, non lo mandano a prendere, vuol dire che non è stato chiamato la persona informata dei fatti, ma è indagato. Secondo Di Pietro questa è la situazione. Insomma, la situazione politica è seria, tanto che nei tanti retroscena che trovate di politica si parla sempre di più di crisi politica, di possibilità di elezioni, anche perché il rapporto tra Fini e Berlusconi pare tornato ai minimi termini. Tutta colpa, secondo per esempio Libero, ma anche il Giornale, ma anche la Stampa, di un pizzino, tra virgolette, un messaggio che è stato intercettato e che Fini ha scritto su una carta intestata la presidenza della Camera, l'ha scritto a chi? A Veltroni. In questo messaggio c'è scritto: fare pace? Fare finta. Tutti si stanno interrogando che vuol dire. Per esempio, pagina 8 di Libero lo titola così: fare pace? Fare finta. A dir la verità, il portavoce del presidente Fini è intervenuto dicendo: ma che state dicendo? Stava parlando, in quel momento si stava parlando del Kosovo. Alla Camera stava parlando l'ex primo ministro Amato del Kosovo, del conflitto tra Serbia e Kosovo. Eccolo qui tutto il nocciolo: fare pace, fare finta. Presidente Fini si riferiva in questo messaggio scritto passato a Veltroni a questo: fare pace, fare finta, Serbia, Kosovo. Ma molti notisti della politica oggi sui giornali pare non credano a questa teoria. Il Cavaliere pensa alla separazione, ora pretendo pubbliche scuse, scrive a pagina 13 Repubblica Francesco Bei. Questo sarebbe stato lo sfogo di Berlusconi nei giorni scorsi nei confronti di Fini. Non voglio vederlo mai più. Se vuole trattare, parlateci pure, ma deve accettare le nostre condizioni, garantire lealtà assoluta in Parlamento. Insomma, pare che si aspetti solo il casus belli per la completa rottura. Anche uno come Roberto Menia, che ha fatto la spola tra Berlusconi e Fini, a Repubblica dice, o meglio virgolettato, non si sa se retroscena o dichiarazioni: dietro ogni leader politico c'è anche un uomo con le sue idiosincrasie, e Berlusconi in questo momento ha tanti problemi: l'euro, i conti dello Stato, la moglie, l'ho trovato un po' stanco. Si andrà chissà a votare, il PD sceglie la prudenza, se precipita tutto si rischiano le elezioni. Pagina 11 del Corriere si analizza il PD e il perché il PD si sta in qualche modo smarcando. Attenzione, forse non siamo pronti alle elezioni. Il PD forse ha anche dei problemi interni, tanto si evincerebbe da un libro che ieri il Fatto Quotidiano ha cominciato ad anticipare, vale a dire quello che Paolo Guzzanti ha scritto. Paolo Guzzanti, ex uomo molto vicino a Berlusconi, ha incontrato l'editore Carlo De Benedetti, cioè il numero uno, insomma, l'editore di Repubblica tra l'altro, e quello che ha detto la tessera numero uno del PD, che però in questo libro che verrà oggi presentato al Salone del Libro di Torino, Carlo De Benedetti spara zero contro il PD. De Benedetti getta la tessera, giudizia al vetriolo sui vertici del PD, anche su Bersani. È stato un buon ministro, ma come leader è totalmente inadeguato. Tanto che il Riformista dice: attacco a Bersani, è il titolo di prima pagina. Il De Profundis di De Benedetti fa salire la tensione nel PD. Insomma, poi si parla di riforme, con questo clima politico che un giorno su due si pensa si andrà al voto anticipato e dall'altra parte del PD c'è questa maretta, le riforme, ciao. In primo piano. La confessione di Pannella ora tocca ai tre ministri gay. Sì, tiene banco nella politica anche il cosiddetto coming out di Pannella, e questa frase è di Franco Grillini, presidente di Arcigay, che dice: attenzione, intanto smettete di dire outing, non si dice outing, è una battaglia persa, si dice coming out, venire fuori. E tra l'altro gli chiedono subito: è lei uno degli uomini che Pannella ha confessato di aver amato? Ma no, entrambi abbiamo buon gusto. Poi però Grillini dice: bisognerebbe parlare dei tre ministri al governo gay. Ma come tre ministri gay? Oh, sì, sì, come nel governo Prodi, peraltro. Ora scatterà la caccia al ministro, Grillini. Ricorda quell'episodio di Berlusconi e Calderoli? Beh, ha appena fatto due nomi, ma no, non sto facendo due nomi. Dico, Calderoli chiese al premier: ma secondo te chi sono i gay qui? E lui: se mi dai un bacino te lo dico. Comunque, nei partiti di centro e di destra, che sono più omofobi, si nascondono di più, dice Grillini. Una volta un parlamentare mi disse, mi dicono che vuoi fare i nomi dei parlamentari gay. Io ho negato e allora lui mi ha risposto: puoi dirmi allora in quale locale si va per cuccare? Insomma, Franco Grillini dice: l'omosessualità c'è tra molti politici, ma non lo confessano. Allora, la pagina economica, come detto, l'apertura del Sole 24 Ore: l'Italia dal PIL un segnale di crescita, l'Italia allunga il passo della crescita. Pagina 3, Rossella Boccerelli spiega come nel primo trimestre di quest'anno l'economia italiana ha allungato il passo, perché l'Istat ha comunicato che il PIL è cresciuto dello 0,5% rispetto agli altri paesi europei, Grecia in testa. Insomma, stiamo messi meglio. Anzi, la nostra, il nostro paese svetta come performance. C'è da dire che l'Europa davvero si interroga di come fronteggiare la crisi. La situazione peggiore pare che sia in Spagna, almeno Zapatero ieri, scrive Michele Calcaterra, pagina 6, si è presentato volto tirato a annunciare una nuova austerity che toccherà da vicino milioni di spagnoli, una manovra di 15 miliardi di euro in due anni, aggiuntiva ai già 50 miliardi decisi in precedenza, e che prevede sacrifici per tutti, in particolare per lo Stato sociale, dunque pensioni, sanità, lavorazione, dipendenti, ma anche il salario dei funzionari, gli investimenti allo sviluppo, alle infrastrutture, tanto che i sindacati hanno già annunciato uno spettro di scioperi ad oltranza. Madrid taglia gli stipendi, la situazione d'altronde è difficile. La Stampa mette insieme quello che stanno cercando di fare tutti a pagina 5: la Spagna, la Grecia, il Portogallo, la Gran Bretagna, la Germania, come gli stati stanno cercando di far fronte alla situazione difficile della crisi. Per quel che riguarda invece il fronte un po' internazionale, venendo anche un po' al tema del nostro sondaggio, che come detto è il nucleare, ha molto spazio sui giornali. La leggo dal Sole 24 Ore: la decisione di Barack Obama di alzare la tassa sul petrolio, energia. C'è anche sullo sfondo ovviamente la catastrofe del Golfo del Messico con la British Petroleum, che ancora non è riuscita a sanare quella falla sotto il livello del mare, che sta facendo perdere 800.000 litri di greggio al giorno nel mare, un disastro ambientale incredibile. Tra l'altro denunce, nel senso che pochi giorni prima del disastro pare che alcuni test avessero rivelato sbalzi di pressione nella tubatura, cioè come dire sta per succedere qualcosa e non sono intervenuti. Ebbene, Obama ha annunciato intanto che vuole far aumentare da 8 a 9 centesimi per barile l'imposta sulla produzione del petrolio, e poi in maniera retroattiva vuole alzare sostanzialmente il tetto sulla responsabilità finanziaria delle società di offshore drilling dagli attuali 75 milioni di dollari, una cifra risibile in confronto al grave e duraturo danno economico inflitto al disastro ambientale. E questo, se la alza retroattivamente, rischia, qualcuno dice, di mandare veramente al tracollo finanziario la BP per quello che è successo. C'è molto del nucleare ancora. Questo è il tema del nostro sondaggio: nucleare sì, nucleare no, sostanzialmente, perché molti intellettuali hanno detto al PD apri al nucleare, Bersani dice no. Vi chiediamo se hanno fatto bene oppure no, e se fa bene Bersani oppure no. Dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. come vedete sto correndo perché il tempo sta finendo, d'altronde ogni giorno capestro è sempre così. L'ultima segnalazione ve la do, la dà solo il giornale: una vicenda di cronaca sconcertante se confermata, guai in vista per il centravanti dell'Inter Samuel Eto'o. Eto'o mi disse abortisci o ti taglio la testa. È il racconto di una ragazza che ha fatto a Milano la commessa, una ragazza senegalese che ha detto ha avuto una relazione con Samuel Eto'o, tutto dettagliato, dove lo incontravo, a casa sua, vari incontri, vari rapporti sessuali, senza il preservativo, sono rimasta incinta. Eto'o, in una serie di telefonate che ho registrato e ho depositato agli atti, mi ha detto: sai come facciamo in Africa? Alle donne che non vogliono abortire gli tagliamo la testa, e dunque fai così, altrimenti ti taglio la testa. Ho già 4 figli, non posso mantenerne un altro. E Eto'o mi disse: abortisci o ti taglio la testa. Pagina 21 del giornale. Davvero una storia incredibile che racconta Luca Fazzo. Sono le 8:19 minuti in questo istante, ben ritrovati, eccoci qua 24 mattino, parliamo di economia. Soldi e dintorni. E allora siamo con Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro e agli ascoltatori. Oggi Alessandro parliamo di un tema un po' singolare per soldi e dintorni, ma sempre insomma di soldi si parla. E che soldi? Parliamo infatti dei pagamenti in ritardo per le imprese italiane che soffrono gravi problemi di liquidità e in termini di rispetto dei tempi siamo fra gli ultimi in Europa. Per farlo abbiamo il piacere di avere con noi Marco Presti, amministratore delegato di Cribis DNB. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. E allora proprio lui ci spiegherà, visto che oggi alla sede del Sole 24 Ore presenterà la Business Community un rapporto internazionale su questo tema, a che punto siamo insomma nei ritardi di pagamenti fra imprese. Mi sembra di capire che non siamo messi molto bene. No, non siamo messi molto bene. Chiudiamo un 2009 con quasi il 25%, più del 25% delle imprese che peggiorano le loro performance di pagamento e solo un 43% del totale delle imprese che è puntuale nei pagamenti. Il primo quarter del 2010 conferma questo trend perché perdiamo 3 punti sulle imprese che sono puntuali, attestandoci sul 40%. Rispetto al 2008 e rispetto al 2007? Rispetto al 2008 il 35% delle imprese ha peggiorato le proprie performance, rispetto al 2007 abbiamo un 25%, no, rispetto al 2007, esatto. E quindi la crisi si fa sentire ed è presente e continuiamo a vederne gli effetti. Tra l'altro mi pare che le piccole imprese rispetto ai grandi gruppi si dimostrino più rispettose, no? Questo è un dato interessante. Sì, è un dato che si conferma anche in questo primo quadrimestre del 2010. Le piccole imprese pagano molto meglio rispetto alle grandi imprese. La spiegazione che ci diamo è legata al potere contrattuale che probabilmente le grandi imprese hanno nei confronti delle piccole. Poi ovviamente c'è anche l'annosa questione da una parte del credito, difficoltà di avere credito, dall'altra della difficoltà di avere pagate le fatture dalla parte della pubblica amministrazione, no? Esistono infatti 70 miliardi di arretrati di pagamenti della pubblica amministrazione, dalla sanità ad esempio paga in ritardo oltre i 200 giorni. Allora Sebastiano Barisoni a Focus Economia l'11 maggio ha intervistato Sergio Arzeni, direttore del Dipartimento per l'imprenditoria dell'OCSE, sul comportamento degli altri paesi dell'Unione Europea riguardo ai pagamenti per la pubblica amministrazione. Allora sentiamolo. Negli altri paesi si è risposto con una riduzione per legge dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 10 giorni massimo per il pagamento delle fatture da parte dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli. Per quanto riguarda la Francia, per esempio, si sono poste dei limiti, ma con delle penali per i ritardi di pagamento, massimo da parte dei privati sono 60 giorni il pagamento, dopodiché si pagano delle penali. Quindi quello del ritardo dei pagamenti è una specialità, una brutta specialità italiana che produce danni gravi a tutta l'economia italiana. E questo riguardava il pagamento che non arriva dalla pubblica amministrazione, però insomma anche le imprese fra di loro hanno dei problemi. Marco Preti, mi scusi, prima ho sbagliato il nome, amministratore delegato di Cribis DNB, tra l'altro territorialmente ci sono delle differenze, no? Sì, ci sono delle notevoli differenze. Anche qui abbiamo Nord-Est e Nord-Ovest che guidano la classifica delle imprese più virtuose per quanto riguarda il pagamento, segue il centro, e il Sud invece dimostra molte difficoltà in più. Esistono settori più o meno puntuali? Sì, ci sono delle differenze. Vediamo in sofferenza, soprattutto in questo ultimo periodo, l'area del commercio. È chiaro che qui la crisi colpisce di più riguardo a questo tema dei pagamenti, la parte dell'edilizia, e quindi sono questi quelli che hanno più ritardi, mentre i più virtuosi sembrano essere la parte delle assicurazioni, agenzie assicurative, e questi sono delle più sulle grandi imprese, insomma. È un problema che riguarda anche il turismo? È un problema che in parte riguarda anche il turismo, come ritardi dei pagamenti, sì, assolutamente sì. Anche questo settore soffre questa parte. Dicevamo le zone d'Europa. In quale regione, città in Italia o in Europa è più affidabile per fare affari da questo punto di vista? Ma noi adesso Londra non molto, mi diceva. Londra non molto, il Portogallo soprattutto, la Spagna e anche nelle aree un pochettino più a rischio. Molto bene invece vanno la Germania e l'Olanda, che hanno anche un trend di miglioramento nei pagamenti. Peraltro la Germania ha una media delle dilazioni di pagamento che si attesta sui 30 giorni, mentre in Italia noi siamo una media di dilazione di pagamento sui 60 giorni, e quindi unisce l'effetto virtuoso della puntualità a un tempo di pagamento che è comunque più corto di quello della media europea. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo, come dicevo prima, difficoltà sulle città del sud, Palermo, Caltanissetta soprattutto, mentre le più virtuose sembrano essere le province di Sondrio, Bergamo e Cremona. E dal punto di vista sempre dell'Europa, la Grecia? Sulla Grecia non abbiamo dati precisi, credo che comunque anche questo sia un indicatore della situazione che c'è in questo momento. Sì. Diceva la Germania, i tedeschi lo sappiamo, sono molto virtuosi, anche in questo caso ci danno lezione, 30 giorni che possono diventare anche 8 se non sbaglio. Sì, leggevo proprio ieri su un articolo sul Sole che diceva proprio questo fatto che ci possono essere clienti tedeschi che sono portati a pagare anche in anticipo a fronte di un piccolo sconto, ma non superando comunque i 30 giorni, che quindi è un dato che sembra essere confermato anche rispetto ai dati in nostro possesso. Ci raccontava prima che nel primo trimestre 2010 stiamo assistendo ancora di più all'accentuarsi di questo trend. Il grande interrogativo ora se possa leggersi questa difficoltà di pagamento come una difficoltà di ripresa. Sì, questo è un interrogativo che abbiamo anche noi. Aspettavamo questi dati del 2010 con una certa curiosità per vedere se quello che stava succedendo nel 2009 fosse o meno confermato, ed è così. Abbiamo questo peggioramento delle aziende che pagano in maniera puntuale. Non abbiamo ancora un incremento grave per quello che riguarda le aziende che pagano con più di 90 giorni di ritardo, che per noi sono quelle situazioni davvero gravi. Lì la crescita dei ritardi è molto bassa rispetto a paesi ad esempio come il Portogallo. Questo significa che le imprese forse stanno tenendo in questo momento, accentuano le difficoltà a pagare in tempo, non hanno ancora gravi problemi, però sicuramente c'è un grosso punto interrogativo su quello che succederà nei prossimi mesi. Quindi il prossimo trimestre, questo che stiamo vivendo, potrà essere uno snodo importante della catena. Snodo importante, anche perché, come dicevamo prima, le piccole imprese, che sono poi l'ossatura economica del nostro paese, sono proprio un po' strette fra questa situazione in cui hanno i pagamenti dei loro clienti in ritardo, sono costrette a pagare puntualmente rispetto ai loro fornitori, e se poco poco abbiamo una stretta del credito, davvero il cash flow o la disponibilità finanziaria delle imprese potrebbe diventare un grosso problema. Grazie a Marco Preti, amministratore delegato di Cribis D&B, per essere stato con noi. Alessandro. Grazie a voi ovviamente, Valentina, poi ci troviamo domani alle 12, ricordiamo Salva Danaio. Noi tra poco parliamo di nucleare, il nostro sondaggio di oggi. Sapete che una serie di intellettuali politici hanno chiesto a Bersani: caro PD, apri al nucleare. Bersani dice no, secondo voi fa bene? Dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com, oppure siamo qui 800 24 0024 se volete intervenire. Le 8:33 minuti, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, nel nostro sondaggio di oggi parliamo di nucleare, per l'appello che c'è stato al segretario del PD Bersani: apri al nucleare. È il sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? 72 persone tra parlamentari, tra scienziati, intellettuali vicini al centro-sinistra hanno fatto questo appello: a caro Bersani, apri al nucleare, una scelta energetica positiva. C'è da dire che Bersani già ha detto di no, la linea del PD rimane no. Secondo voi è questa la linea giusta? Vi chiediamo questo nel nostro sondaggio radio24.it o ilsole24ore.com. Dovete votare, però vi state spaccando letteralmente a metà, 51-49. Ne vogliamo parlare con diciamo il promotore di questo appello, uno dei promotori, Chicco Testa. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. No, purtroppo c'è un po' di rumore, sono in stazione. Scusa. Ci mancherebbe. Saluto anche il senatore del PD, Francesco Ferrante. Buongiorno, senatore. Buongiorno a voi. Possiamo iscriverla tra quelli, diciamo, della linea Bersani su questo tema, cioè il no, rimane il no al nucleare. Chicco Testa, oggi lei ancora sul Riformista dice il no al nucleare. I no al nucleare sono di due tipi sostanzialmente: la questione sulla sua utilità e i questioni dei rischi, ma lei dice sono tutti no immotivati. Perché è così convinto, che tanto da fare questo appello al PD Bersani, che il nucleare sia la scelta giusta? Sulla prima parte, quella che mi interessa di più, diciamo, relativa ai problemi delle politiche energetiche, l'articolo mio è incentrato su un punto. I dati degli ultimi 10-15 anni per quanto riguarda i consumi di elettricità ci dicono due cose. La prima è che ovviamente crescono in 10 anni del 50% rispetto a 10 anni fa, soprattutto per l'enorme domanda che viene dall'Asia, diciamo, Cina, India, eccetera, eccetera. Ma la seconda cosa molto più preoccupante è che l'unica fonte che aumenta in quantità enormi, più 8% in 10 anni, sono le fonti fossili, cioè la quota di energia elettrica fatta col carbone, col gas e con l'olio supera ormai il 65% e continua a crescere. Nonostante anche delle buone performance, per esempio dell'idroelettrico o delle stesse rinnovabili, che aumentano molto ma rimangono in percentuali intorno all'1,5%, 2%. E io credo che uno dei modi per fronteggiare questa crescita enorme del peso dei combustibili fossili sia anche il ricorso all'energia nucleare. Tutto qua. Tra l'altro, senatore Ferrante, la questione, giustamente, su questo forse possiamo essere d'accordo, l'appello inizia così: il nucleare, la questione del nucleare, le scelte energetiche non sono né di destra né di sinistra, non vogliamo fare una questione politica, però secondo voi questa, come è stato messo questo appello, rischia di diventare una questione politica? Cioè, come l'avete vista l'idea dell'appello a Bersani, apri al nucleare, come se fosse una questione meramente anche politica, cosa che forse non è? No, è sicuramente come dice lei, nel senso che poi la questione energetica, se guardiamo un attimo fuori all'Italia, è affrontata, devo dire, in maniera abbastanza univoca, cioè puntando su rinnovabili, efficienza energetica e non sul nucleare, sia da destra che da sinistra, un po' in tutto il mondo. Vi faccio notare che l'alleanza appena eletta, diciamo, vittoriosa in Gran Bretagna, vedi, liberal democratici, assolutamente contrari ad ogni ipotesi persino di sostituzione del nucleare già esistente in Gran Bretagna, per cui, diciamo, è una questione che sicuramente, diciamo, non c'entra niente la destra e la sinistra. No, io dell'appello di Chicco e degli altri ho trovato fastidioso il fatto che si dicesse una cosa che, visto che io e Testa dibattiamo su questo argomento da molto tempo, francamente trovo inaccettabile che si voglia dire che chi dice no al nucleare lo faccia per motivi ideologici e pregiudiziali. Ora, questo non è, diciamo, non è assolutamente. Io credo, sulla questione energetica è molto complicata, le cifre sono molto difficili anche da leggere, però io potrei dire, controbattendo quello che ha appena detto Chicco Testa su quello che succede nel mondo, che d'altra parte il nucleare in questi anni non è aumentato in tutto il mondo, e in tutto il mondo anche chi ce l'ha già il nucleare, pensate agli europei ma anche agli Stati Uniti, al massimo riflettono se è il caso di continuare a utilizzare il nucleare che hanno. Ma lei dice non c'è un no ideologico e pregiudiziale, però secondo lei non pesa un po', non so, la vicenda, sappiamo, del referendum, magari si votò anche sull'onda della vicenda di Chernobyl, ovviamente. Assolutamente sì. Ci sarà una parte ascrivibile a questa, insomma, a questi timori? Assolutamente magari? Sì, assolutamente sì, e d'altra parte però quei problemi legati alla sicurezza e anche allo smaltimento delle scorie l'attuale tecnologia non l'ha risolta, non c'è al mondo un luogo dove si depositino le scorie nucleari dell'attuale tecnologia nucleare in maniera sicura, neanche negli Stati Uniti d'America che hanno deserti a loro disposizione. Quindi i problemi tecnologici esistono tutti, diciamo, in questi 20 anni non sono stati risolti, ma c'è un problema appunto economico che a me diciamo pare evidente, che per esempio una delle cose che dice sempre il governo Berlusconi e l'ex ministro Scajola lo diceva molto spesso, che grazie al nucleare si ridurrebbe la bolletta elettrica in questo paese. Questo è del tutto falso, non è vero, tant'è che chi vuole costruire le centrali nucleari in questo paese ha già detto che per costruirle ha bisogno anche che si metta un prezzo fisso in bolletta, sì. Questo, diciamo, dedicata contro ogni ipotesi di libero mercato. Quindi insomma no ideologico e pregiudiziale, ma dice, ma sono no anche motivati dal punto di vista economico, delle scelte strategiche. Tra l'altro, Chicco Testa, l'appello è a Bersani, però io paradossalmente ho visto, soprattutto in campagna elettorale, e posso elencarli così a memoria, Zaia in Veneto ha detto, elenco quelli di centrodestra, siamo già autonomi, Caldoro in campagna, qui no, Cappellacci in Sardegna, la Polverini nel Lazio, qui no, Brunetta che era candidata a Venezia ha detto no in Veneto la centrale, no, cioè l'appello va fatto a sinistra, ma forse va fatto, insomma, chi è che la vuole una centrale nucleare? Nessuno, mi sembra di capire, almeno a parole. Molto, molto pochi tra gli uomini politici italiani, i quali nel privato confessano tutti regolarmente, compresi una gran parte dei dirigenti del PD, che il nucleare sarebbe una scelta necessaria, ma poi, mi permetta di chiamarla per fellonia politica, preferiscono sottrarsi a questa responsabilità. Quindi, quella è una lettera che è nata da un gruppo di persone che sono impegnate oppure semplicemente hanno simpatia per il centro-sinistra e, come dire, erano un po' stanche di sentir ripetere sempre le stesse cose senza alcun spiraglio di discussione. In fondo quello che la lettera chiede non è di cambiar linea o di arrivare, ma proprio di aprire una discussione in termini un pochino più seri, in cui siano date spazio anche alle altre posizioni. Il mio amico Garante ha detto delle cose, per esempio ha fatto cenno all'Inghilterra, no? In Inghilterra è stato battuto Brown, leader laburista, il quale aveva appena varato, insieme al suo ministro dell'ambiente Miliband, considerato tutto il mondo come un ambientalista importante, aveva appena varato un piano per la costruzione di 10 nuove centrali, peraltro di intesa con il conservatore Cameron. Adesso, onestamente, potranno anche cambiare posizione, io non lo credo, non lo credo, ma è abbastanza singolare, diciamo, che d'altra parte i grandi paesi governati dalla sinistra, o che sono stati governati dalla sinistra, il Giappone per esempio oggi, o il Brasile di Lula, o se vogliamo, forse sinistra non è la parola giusta, ma insomma con un orientamento certamente democratico come gli Stati Uniti di Obama, hanno tutti programmi nucleari nel loro futuro di grande importanza. Si ripetono delle cose. Vede, una delle cose che ho sentito dire più spesso, per esempio, è che dopo Three Mile Island, dopo l'incidente degli anni Ottanta, negli Stati Uniti l'energia nucleare sarebbe morta. Ci ho creduto anch'io, fino a quando non sono andato a guardare i dati. Dal 1900, l'incidente mi pare che è del 78 o del 79, dal 1980 ad oggi l'energia nucleare negli Stati Uniti ha quadriplicato la sua produzione. Sì, lei oggi cita i dati sul Riformista, esatto, sono entrati in funzione 47 nuovi reattori. Sì, ma sono numeri rintracciati, non è che me li invento, stanno tranquillamente su CERN, su internet. Sì, però Ferrante dice non piace di questo appello l'idea che chi dice no è pregiudizialmente, ideologicamente contrario al nucleare, mentre può essere un no fondato su dati. Può essere qualche forzatura polemica. può anche darsi. Devo dire che normalmente nei dibattiti che vado a fare trovi interlocutori che entrano nel merito, trovi anche un sacco di posizioni. Cioè, quando io sento dire che le masserie diventano fosforescenti da un signore che peraltro non è del PD, si chiama Nichi Vendola, ma che diciamo è uno dei candidati non ho capito bene con quale sistema e in quale modo, beh, allora è un po' difficile non chiamarli pregiudiziali ideologiche, diciamo, anzi alla preideologia, no? Alla preideologia. Vediamo se Daniele da Prato 800 24 00 24, ci state chiamando ovviamente in molti. Daniele da Prato, prima del traffico. Daniele, che pensa? Sì, io sono antinuclearista. Comunque antinuclear, pregiudizialmente o per chi ha studiato? Non pregiudizialmente, no. In Italia francamente non serve, anche perché in Italia, di che se ne dica, non c'è nessuna legge che abbia detto che non si potessero costruire centrali nucleari. Il decreto legislativo 230 del 15 marzo del 95 dice tranquillamente in che maniera si devono... Però lei dice, perché? Che vuol dire non serve? Non serve tu, perché avremo energia tra 20 anni, e in questi 20 anni voglio vedere che cosa facciamo. Con un mercato liberalizzato dove il prezzo varia continuamente, e infatti il nucleare che vogliono fare in Italia dovrebbe essere, anzi è sicuramente sovvenzionato. Quindi dice, è una scelta, secondo lei, dice, sbagliata, perché si inizierebbe a produrre energia nucleare tra 20 anni, e vabbè, e ma i piani non energetici fare... non sono a termine di 2, 3, 4, 5 anni, sono stati che fanno piani a 100 anni, insomma. Però... Esatto, e poi vorrei dire soltanto un'altra cosa: Brasile, Cina, India sono enormi nazioni dove si svilupperanno anche alcune centrali nucleari, ma svilupperanno anche tante fonti rinnovabili. In Italia 4-5 centrali nucleari vorrebbe dire bloccare tutto lo sviluppo in termini di finanziamento per le altre fonti. E un'ultima domanda, perché o quello o l'altro, lei dice. E un'ultima domanda al dottor Testa: se ci può dire dov'è che ha investito i suoi risparmi, comprando azioni a Reva o di aziende energetiche sostenibili? Tocca un tasto. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in vita. Bianco o nero? Allora, le 8:48 minuti, siccome devo lasciare il senatore Ferrante un paio di minuti prima, allora senatore, poi veniamo alla questione di Chicco Testa, insomma anche alla domanda dell'ascoltatore. Senatore, c'è un problema secondo lei politico che potrebbe crearsi? Alcuni del PD l'hanno firmato questo appello, il senatore Ichino, il senatore Veronesi, anche altri. Siamo un grande partito, quindi è del tutto legittimo che ci possano essere delle personalità che abbiano opinioni diverse. Non metto in discussione la linea del partito. Io trovo però, francamente, un po' stucchevole questo modo di affrontare il discorso, che a Chicco è anche ritorna sul modo in cui ha scritto quell'appello. Non si può caricaturizzare il ragionamento degli altri, sostenere che non sono seri, parlare di masserie fosforescenti che francamente non so dove abbia sentito. Si confronti con quello che stiamo dicendo. Quello che stiamo dicendo è che in questo benedetto paese pensare di un investimento che equivale a circa 40 miliardi di euro per riuscire a ottenere quello che poi verrebbe a poco meno del 5% dei consumi energetici totali di questo paese, perché di quello stiamo parlando, è un'assoluta follia, o burro o cannoni, si diceva. E allora non è che possiamo spendere 40 miliardi il sistema per ottenere il 5% dell'energia, perché mi sembra una scelta che non ha alcun senso economico. È talmente così che appunto i paesi con cui noi ci dobbiamo confrontare, finiamola di tirare fuori la Cina, l'India, il Brasile, che sono paesi che hanno economie completamente diverse, altre soluzioni, altre dinamiche. I paesi con cui ci dobbiamo confrontare noi stanno discutendo se dismettere il nucleare che loro hanno. Allora, questo è il tema, non so se testa di più. Testa ho sentito perfettamente, ma mi scusi, abbiamo investito 4 miliardi di euro fino a ieri per fare con il fotovoltaico lo 0,2% dell'energia elettrica, 0,2%. Ecco, allora, se vogliamo parlare di numeri, parliamo di tutti i numeri. Come la questione, io ho parlato del Brasile, della Cina e dell'India, ma ho parlato anche degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia, della Germania. Quanti paesi ci sono nel G8? 8 sono i paesi più importanti del mondo. Qual è l'unico paese che non utilizza l'energia nucleare? L'Italia. Allora, tra l'altro, Chicco Testa, veniamo. Lei, so, ieri è già intervenuto alla Zanzara da Giuseppe Cruciani, ieri è stato un battibecco in onda, cominciamo bene, di Fabrizio Frizzi, quando si parlava di questo tema nucleare. C'era Mario Tozzi che stava parlando, il geologo, è successo un fuori onda, diciamo, un commento che lei ha fatto ha suscitato qualche polemica. Vogliamo risentirlo così rispondiamo agli ascoltatori. Ancora oggi, contrariamente a quello che dice Veronesi, non c'è al mondo un posto. Questo è Mario Tozzi, il geologo che parla. Stoccaggio delle storie. Definitivo vuol dire geologico, un posto geologico. Non c'è né Yucca Mante negli Stati Uniti, nello stesso luogo, né in nessuna parte del mondo. Cioè non sappiamo dove mettere le scorie, non lo sappiamo. Dopo sentiamo il professor Battaglia su questo, perché vedo che è pronto a dire altre cose, però sentiamo anche chi ci telefona. Pronto? Pronto? Ti permettere di dire che io guadagno pronto? Dei soldi perché ti spacco la faccia. Buongiorno, benvenuta. No, se mi minacci, allora aspettate, perché scusate, ecco, qui c'è frase qua, non ti permettere, è lei questo Chico Testa, non ti permettere di dire che guadagno soldi. Questa è l'accusa che ha sentito anche l'ascoltatore, dice dove ha investito i suoi risparmi. So che lei si arrabbia molto. No, io guardi, con le energie nucleari non c'entro niente. Anzi, io ho investito i miei risparmi per un'azienda che costruisce pannelli fotovoltaici, va bene? E piccole centrali idroelettriche, si chiama Eva, andate a vederla su internet. Quella che mi ha fatto arrabbiare, per cui ho sfortunatamente perso la pazienza, è proprio il fatto che un minuto prima il dottor Tozzi, il geologo Tozzi, anziché rispondere ai miei argomenti, mi ha detto: lei è favorevole al nucleare perché ci guadagna dei soldi. Ma dove? Ma che modo è di fare il dibattito? Perché Tozzi non guadagna i soldi con i suoi libri sull'ambiente? Ma l'ho mai accusato per questo? Non fa il presidente del parco dell'arcipelago toscano? Immagino che sia pagato per fare quel mestiere. Quindi lei si è molto adombrato, perché molti hanno metodo proprio, capisce? Certo, molti hanno riletto anche la sua storia a dire: ma come fa Chicco Testa, tra i fondatori di Legambiente, antinuclearista all'epoca del referendum, poi aver cambiato idea? Perché uso la testa, anche gli altri per carità usano la testa, ma siccome sono 20 anni che studio problemi energetici e vedo che come si schierano anche alcuni grandi personaggi dell'ambientalismo mondiale, a cominciare da James Lovelock, per dirne uno, ho fatto una riflessione che peraltro ho esposto compiutamente in un libro, non è che ho cambiato idea dalla mattina alla sera. Trovo questo modo di discutere in Italia, accusando le persone, veramente ormai al limite dell'inciviltà. In Italia è un po' così, Chicco Testa, no? su tutti i temi, purtroppo. Sentiamo due ascoltatori, Silvio da Milano e Salvatore dalla provincia. Silvio. Sì, buongiorno. Che dici? Senta, io devo dire che intanto non ci guadagno niente, perché tutt'altro lavoro. Neanch'io, lo diciamo, neanch'io, sono solo stipendiato da Radio 24, punto. Volevo dire questo: io ai tempi, quando c'è stata, diciamo, il disastro di Chernobyl, sì, ho votato per il referendum no al nucleare. È stato condizionato da questo? Ha cambiato opinione? No, adesso, oggi come oggi, in buona sostanza, e sono anche ambientalista e poi non nascondo che sono di centro-sinistra, però adesso io sono per il nucleare, sa perché? Se noi guardiamo i disastri che avvengono per gli idrocarburi, il petrolio, vediamo l'ultimo, guardando l'ultimo al Golfo del Messico. E Obama ha detto adesso li faccio pagare i petrolieri, ma un centesimo sul disastro a noi che cosa può interessare? Ma no, centesimo al barile, al barile. Ma in confronto al disastro che si sta propiziando, una cosa. Ecco, io dico una cosa, semplicemente questo: pensiamoci bene, perché questo è il momento, altrimenti veramente non so come andremo a finire. Petrolieri, disastro, petrolio e quant'altro, forse è meglio concentrarci tutti quanti su una soluzione migliore, dove il nucleare, con chiaramente anche alternative, perché non dico solo il nucleare, ma anche con le alternative, potrebbe essere una soluzione. Va bene, grazie. E per i nostri figli. Silvio, la ringrazio. Non c'è tempo per Salvatore, mi dispiace, ma insomma ringrazio Chicco Testa e senatore Ferranti. Io voglio chiudere, ricordo, come avete sentito ormai anche nel nostro GR, noi siamo al Salone del Libro di Torino, che apre oggi. Ci trovate al Padiglione 2. E vi dico così, Padiglione 2, poi cercate, insomma, no? Fate un po' la caccia al tesoro. Ci sono dei programmi di Radio 24 ogni giorno in diretta. Oggi avremo Melog alle 10, A Tempo di Sport alle 14, Focus Economia alle 17 e La Zanzara con Beppe Cruciani alle 18:30. Tutti lì in diretta, venite a trovarci se tra un libro e l'altro avete anche voglia, al Padiglione 2, a trovare Radio 24. Io sono qua, ahimè, nella sede di Milano, con Sara Spreafico, che saluto, con Peter Bescapeschi, che saluto in regia. Do la linea a Oscar Giannino, bianco o nero, e tra radio24.it. A domattina.